Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8 e 18 minuti, ci siamo Oscar, eccoci qua, buongiorno, inizia una settimana di Attenti a noi due. Come eccoci solito, qua, eccoci vince qua. Il computer e il microfono su Oscar, 1-0 per ora. 1-0, il risultato più gettonato di ieri. No, è il risultato che tu hai come santo San Bonaventura, questo è il tuo problema. 1-0, 1-0. Ieri l'1-0 mi è piaciuto come risultato. Mamma mia, ma non si musulta sulle sventure del avversario. No, 1-0 per Milan Pescara, cosa pensavi? No, è San Bonaventura, ma ieri non era San Bonaventura, né oggi è San Bonaventura, devi sapere. No, oggi è Santa Lucilla e poi Epimaco, Fogliano, Quintino, tanti altri santi. Naturalmente io e te diamo un pensiero a tutti i santi che veglino, per così dire, sulla testa degli sfollati, su cosa siamo d'accordo. Sì. Però volevo ricordarti che oggi è l'anniversario di Martino Lutero che affigge le 95 tesi sulla chiesa di Wittenberg, ed è per questo, in questa occasione, che Papa Francesco ha fatto la dichiarazione qualche giorno fa di comprensione verso Martino Lutero, per così dire. Oggi in Svezia, poi vola. Esattamente, quindi è una cosa storica. Ricordo che proprio in questo stesso giorno, nel 1999, ci fu la prima dichiarazione congiunta cattolica-luterana sulla famosa secolare dissidio tra fede e salvezza, quanto contino le opere, quanto conti invece la predestinazione e così via. E quindi, insomma, naturalmente ieri ci siamo beccati il fondo di Scalfari che inneggiava al Papa Bergoglio Luterano, a parecchi cattolici non piace e così via. Però, detto tutto questo, cosa ricordare ancora della giornata? Che nell'84 moriva Edoardo De Filippo, nel 93 moriva Fellini, però nasceva Bud Spencer, che è scomparso da poco, però nasceva anche Marco Van Basten, te lo voglio ricordare, nel 64, grazie. E persino Angelino Alfano, per così dire. Oggi è il compleanno di Alfano. Ed è anche il compleanno di un ex grande direttore del Sole 24 Ore, che a me è molto caro, che si chiama Gianni Locatelli. È vero. E allora, cari amici, caro Oscar, ovviamente diamo il numero di telefono 800 24 00 24, perché ovviamente il filo rosso che terremo sarà legato al terremoto. Ecco, anche questa cosa degli sfollati. Ieri si è sparsa questa cifra di 100.000, che in realtà è una cifra esagerata. Lo stesso presidente della regione Umbria, per la verità, ha detto... nella regione Marche, per la verità, è stata una cifra iperbolica. In realtà sono 30-35 mila, erano 8-10 mila quelli del 24 agosto ed erano 4-5 mila quelli di Ussita e Visso del 26. Il punto è che una stima coerente alla valutazione dell'agibilità che è avvenuta per effetto della magnitudo nei 40 comuni marchigiani, oltre fuori dal epicentro, che sono comuni importanti, Fabriano, Tolentino e così via, d'acqua, e come ordine di grandezza noi rispetto al 24 di agosto siamo passati dal totale comprensivo, quello del 26 ottobre, di un ordine di grandezza sfollati fino a 10.000 tra agosto e ottobre, a uno che è dell'ordine di grandezza di 100.000. cioè, questo bisogna saperlo, perché l'impatto è enormemente diverso dal punto di vista non solo delle migliaia di accertamenti da fare, persino nei paesi colpiti bisogna ricominciare da capo su tutti gli accertamenti di quello che era già stato accertato di agibilità, ma il totale della popolazione è molto diverso, le migliaia di edifici sono molte di più, sono decine e decine di migliaia, le economie colpite da rimettere in piedi sono molto più vaste. Insomma, è come passare a un fenomeno che è 2/3 del totale degli immigrati sbarcati in 9 mesi in Italia, con la differenza che ci sono migliaia di... una cosa... guarda che io capisco la Protezione Civile, però il nostro compito è anche quello di informare l'opinione pubblica che l'ordine di grandezza ormai è completamente diverso. Tra l'altro ci sono molte persone che non vogliono lasciare le case, e questo il capo della Protezione Civile ancora dice, non facciamo fatica a far capire alle persone, non li vogliamo deportare, si utilizzano poi questi verbi in maniera impropria, ma vogliamo solo far capire che dormire nelle macchine, per esempio, di fronte alle case non ha molto senso. È chiaro che però la gente non vuole lasciare le proprie cose, le proprie case, la propria terra. È inevitabile però che questo accada, perché tra l'altro ci racconterà un ospite che avremo alle 8:40, il timore di nuovi sciami sismici è un timore molto molto forte. Tanto chiamateci se siete delle zone colpite o se avete qualcosa da raccontare come testimonianza, ripeto, all'800 24 0024. Bisogna comprendere anche che poi nei centri minori, non sto parlando tanto di Norcia, quanto nei centri minori di vicino, Castelnuovo di Nera e così via, non è da trascurare rispetto a questo fenomeno della gente che ha visto gli spostamenti in autobus verso gli hotel, verso la zona mare, come una deportazione. Ieri hanno opposto grande resistenza. Il fatto che stiamo parlando di paesi in cui l'età media è elevata, come dato di fatto, stiamo parlando di persone che hanno vissuto dal 1980 a oggi almeno tre importanti eventi sismici e che vedono a un'età inoltrata, insomma, voglio dire, va bene essere forti nella vita, capito? Però c'è un livello di prostrazione da una parte, e dall'altra chi aveva esercizi commerciali proprio di fronte all'età media dice: vabbè, io bisogna che invece entri in un'orbita di idee per cui prima che passino tutti gli anni necessari a mettere qui in piedi un minimo l'economia, vado altrove e faccio altro. Quindi prima Oscar mi ha fatto vedere, lo trovate per esempio sul sito del Corriere.it, anche un ascoltatore ora ce lo segnala, un video impressionante che alcuni cacciatori hanno ripreso, stavano cacciando e hanno ripreso col telefonino, e si vede la terra, ma neanche dire tremare, proprio la terra sobbalzare la terra scossa come veramente ci fosse la mano di un gigante che la fa vibrare. D'altronde è la scossa più imponente dal 1980, dal terremoto delle Pini. Anni. A questo proposito però, la scossa, sai che Oscar, non possiamo, noi siamo anche un po' sempre irriverenti, no? Ci piace mettere un po' il dito nelle cose, nelle piaghe, nelle cose che scottano. C'è da dire che questa volta il complottismo è stato frenato fin da subito, diciamo con qualche sforzo, ci bisogna di tre importanti scosse in due mesi per fermarlo, esatto. In Italia però doveva capitare subito. Su Facebook una senatrice, la senatrice Enza Blundo, Movimento 5 Stelle, ha detto che all'inizio si era detto una sisma di 7.1, poi corretto, perché se viene corretto al ribasso non bisogna pagare la totalità dei danni che sono diciamo causati da questo stesso sisma. Vabbè, il complottismo Che soprattutto, voglio dire, manca di rispetto fondamentale. Comunque io invito tutti a rileggere sul Corriere della Sera, come su qualunque quotidiano, i pezzi che insegnano, spiegano, ma voglio usare apposta questo verbo, insegnano come funziona il sistema di rilevamento affidato a scienziati dell'ordine di magnitudo dei terremoti in Italia e in tutto il mondo. Significa mancare di rispetto alla professionalità di questi scienziati, a cui non passa manco per la canna del cervello nei minuti in cui si compiono le operazioni per incrociare le prime stime con la velocità crostale e così via, eccetera eccetera, per arrivare al dato non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di immaginare delle valutazioni politiche per i criteri di rimborso. Piantiamola lì, perché a furia di considerare gli scienziati nel nostro paese come burattini al servizio di teorie che non hanno fondamento, alla fine abbiamo tagliato i fondi alla ricerca e siamo meno abbiamo nel nostro apparato di rilevazione scientifica del paese, vulcanologico e sismico, non siamo in grado di sfruttare davvero le eccellenze mondiali che abbiamo in questo campo, di prestigiosi scienziati e ricercatori che infatti vanno a lavorare anche loro all'estero. Ma infatti noi abbiamo chiamato un ospite, in realtà l'abbiamo chiamato per una vicenda diversa che riguarda il suo ambito, la medicina, e che adesso tra un attimo approfondiremo, però non possiamo non approfittare di questo come dire clima che spesso abbiamo sottolineato di antiscientificità che c'è in Italia, per fare anche lui una domanda premodernità, questo tema. È Giuseppe Remuzzi, che è responsabile di ricerca in Mario Negri Bergamo. Buongiorno professor Remuzzi, ben trovato, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, che dire, lei non è esperto di terremoti come no, noi, ma voglio dire, si leggono sempre, sa che io poi quando ho letto la segna stampa ci hanno aggiunto e anche mi hanno scritto le scie chimiche, poi chi più ne ha chi ne metta, si può arrivare fino alla Luna che non abbiamo mai conquistato in realtà. I vaccini, per dirne un'altra, che hanno un impatto epidemiologico sulle patologie che tornano ad affacciarsi nel nostro paese, non cosa da ridere. Lei si è mai dato un'idea, una spiegazione perché si diffondono così tanto queste teorie antiscientifiche, hanno così spazio? Ma ci sono diverse ragioni. Una è, abbiamo ancora oggi quello che avevamo in passato quando la medicina non era quella che è oggi. La medicina ha fatto più passi avanti negli ultimi 100 anni che nei precedenti 2000. E allora c'erano tutte queste persone che avevano fama di successo e di soldi, che sono sintetizzati in quella bellissima storia di Donizetti, dell'Elisir d'amore di Dulcamara. Esatto. Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, le cui virtù preclare sono note all'universo e in altri siti, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Poi invece costava tanto perché erano 5 scudi e ben sonanti. Se voi guardate questo... E del resto, mi scusi, ma personaggi fondamentali che vengono tramandati come punti di riferimento, cioè... Da una parte Casanova, dall'altro Cagliostro, questo facevano per campare, soprattutto al di là di sedurre le signore, cioè vendevano impiastri come medici di grande successo, di riferimento nell'epoca, chiusa parentesi. Certo, ed era facile, e poi c'è questa voglia di successo. Poi c'è il problema che la gente è sempre alla ricerca del miracolo, per quanto oggi la medicina guarisca tantissime malattie, non guariscono tutte le malattie, dobbiamo avere il coraggio di dire qui non ci siamo ancora, abbiamo fatto degli enormi passi avanti ma qua non ci siamo. E allora le persone cosa fanno? Cercano la soluzione, naturalmente quello che gli dice io ti curo l'autismo, adesso c'è un medico, mi pare si chiami Massimo Montinari, che ha pure a che fare con la polizia, se ho capito bene da articoli che sono stati scritti in questi giorni, il quale vende dei protocolli per cura dell'autismo, che sono cose le quali non hanno nessuna base, nessuna dimostrazione scientifica, niente di niente, e qui c'è una grande responsabilità, naturalmente fa riferimento anche a questo, c'è anche dell'informazione, c'è questo terribile articolo di Lancet che poi è stato ritirato sul fatto che ci fosse un rapporto tra vaccino e autismo, non è vero, però questa persona aiuta le persone a dire sì, tu hai avuto una cosa, e fa delle perizie, quindi si fa pagare, mi pare che siano 1.000 euro per ogni consulenza, così perlomeno scrive il foglio di questi giorni, e poi invece fa delle visite per procurare delle sostanze le quali aiutano a curare l'autismo, l'eliminazione del glutine, della caseina, e tutte sono cose senza nessun senso. E quindi sono gravi, ma c'è la responsabilità anche nostra, perché sì. Quando nostra cosa dice, dei medici? Dei medici, certo. Quando Vannoni ha venduto le sue cellule, che in realtà erano un pasticcio fatto di cose che conteneva tutto senza cellule, e trattavano i bambini, e lui questo l'ha fatto in un ospedale pubblico dove c'erano medici che si sono prestati a fare questa cosa qua, questo metodo stamina. E l'ordine dei medici è intervenuto tardissimo, sono intervenuti quando ormai tutti avevano capito che questo era un imbroglio, ma si capiva subito, c'è stata la complicità dei giudici, perché i giudici, io in una trasmissione di Alessandro Milano ho parlato con uno di questi giudici, dico ma come voi prescrivete? No, noi non prescriviamo, noi ci limitiamo a dare seguito alla prescrizione di un medico. Sì, ma un medico può essere anche matto. E allora il giudice dovrebbe essere uno che giudica, a me pare, se un medico è matto o non è matto, perché il numero dei matti nei medici. Su questo però, Muzzi, forse dovrebbe essere più l'ordine, no? A tutelare. Ecco, cioè, perché certo, l'ordine dei medici avrebbe dovuto intervenire siamo subito. Appena intervenuti dopo tantissimo tempo, quando ormai tutti i pasticci sono stati fatti. No, dico, ci siamo appena occupati qui a proposito di medicina difensiva, degli eccessi a cui si ricorre ormai in Italia, perché questo è diventato una delle peggiori minacce, spade Damocle che sta sulla testa di chiunque faccia la vostra professione. Ci siamo appena occupati di un processo in cui appunto in realtà il giudice ha rischiato di prendere fischi per fiaschi, perché il perito della procura non ne capiva niente esattamente di quella specializzazione, esatto, di cui si stava parlando, e sicura incardinato l'intero caso. Quindi la deontologia prima della giustizia penale, secondo me. Ma tra l'altro, a proposito di ordine, c'è stato un caso di recente in cui l'ordine è intervenuto, l'ordine dei medici, depennando dal proprio elenco la non so se chiamarla più dottoressa, non la chiamarla. Gabriella Mereu, è colei che dice, beh, insomma, io ricordo che anche le Iene, Nadia Toffa l'aveva inseguita qualche mese fa, è una santona che promette di guarire. C'è per esempio un audio che abbiamo recuperato dalle Iene, lo facciamo sentire a Remuzzi, perché tra l'altro Remuzzi come specialità, se non sbaglio, è nefrologo, no? Si occupa di reni e non solo, ma come specializzazione, e Sentite questa Mereu cosa dice a un paziente. La malattia viene dalla nostra coscienza. Bisogna lasciare i medici senza clienti. Qual è il suo problema? Ai calcoli, senta i calcoli. Deve far quadrare il bilancio? No, non c'è niente. Si fa i conti? Pochi. No, perché ho notato che i calcoli si materializzano. Ovviamente l'audio non è il massimo, ma il concetto è questo: lei fa il magazziniere, sì, ma lei fa quadrare i conti. Il magazziniere poi non fa quadrare, esatto, lasciamo perdere. I calcoli vengono a chi fa i calcoli. Questo è un po' il concetto, no, professor Remuzzi? A me viene è incredibile, viene ancora da sorridere. Viene ancora da sorridere. In realtà c'è poco da ridere perché non c'è da ridere, no? Qui quello che noi possiamo fare, secondo me, è quello che fa per esempio Oscar Giannino con la sua trasmissione sull'economia, cioè educare le persone al senso critico in modo che imparino a dare credito alle fonti di informazione autorevoli. Se uno dice i calcoli vengono per i calcoli ed è abituato a pensare in modo critico, capisce da solo che siamo di fronte a una persona che imbroglia. Bisogna tener conto però anche che noi tendiamo a semplificare, tendiamo a dare credito alle cose che riusciamo a capire bene. Quindi dobbiamo insegnare anche alla gente in modo chiaro, in modo semplice, perché se noi la mettiamo troppo complicata è molto chiaro che diamo spazio a tutto il resto. Bisogna tener conto poi che la scienza è tutto il contrario dell'emozione, mentre queste persone sono mosse dall'emozione. Noi abbiamo un cervello che prima si rende conto emotivamente del fatto mi piace, non mi piace questa persona, mi piace questa teoria. E poi, anche se voi volete ragionare, la ragione segue la prima emozione o tenta di giustificare la prima emozione, mentre la scienza è esattamente quello che allontana le emozioni di razionalità e invece ancora le proprie scelte alle prove, che sono sempre più difficili. Ormai per pubblicare un lavoro su una rivista molto alta è diventata un'impresa titanica, perché la competizione è spaventosa e quindi quando una cosa viene pubblicata, soprattutto su una rivista importante, ha molte, molte probabilità di essere la risposta giusta al quesito che si era posti. Sì. Tenete conto che la scienza fa passi che sono progressivi, non si risolve tutto nello stesso modo, alcune malattie non le sappiamo curare, però ci sono delle cose straordinarie e tangibili. La cosa più brutta che c'era era il melanoma metastatico, adesso abbiamo un farmaco, questi malati guariscono, prima morivano tutti. Adesso abbiamo malati che guariscono, abbiamo malati che sopravvivono più di 5 anni. Quindi i risultati della scienza sono lì da vedere. Ci sono. Questa Gabriella Mereu è stata poi appunto cancellata dall'ordine, però ha tantissimi seguaci. Questo fine settimana nella mia Torino cioè, la vicenda teneva banco su tutti gli organi di informazione locale, perché si parlava di un incontro che le era stato consentito nel bar di una delle sale e quindi a tutti gli effetti dentro la Galleria d'Arte Moderna. C'è stata una polemica, poi chi gestisce la Galleria d'Arte Moderna ha detto no, veramente no, va bene che noi lo diamo a chi paga regolarmente, però facciamo marcia indietro. Dopodiché ha tenuto comunque un incontro in un condominio, insomma, con 150 persone, cioè, che chiedevano, certo. Ovviamente tutti invitati tranne i giornalisti, che sono il male come i medici male, e come le medicine. Quindi professore Remuzzi, ci siamo dentro tutti, non anche noi ma anche lei in questo. Sì, certo. No, ho capito, certamente ci siamo dentro tutti, secondo Gabriella Mereu. È una medaglia che ci possiamo puntare al petto, però posso dire, io apprezzo molto coloro che come il professor Remuzzi, a parte grazie, non merito questo tipo di accostamento che ho fatto prima con la mia trasmissione del sabato, però detto tutto questo io lo ringrazio anche perché è uno di quelli che riconosce che nella comunità scientifica, nella comunità medica, a volte c'è anche la tendenza, limite, la tendenza a dire vabbè, ma perché ci dobbiamo impegnare in prima linea noi per primi con tutti i guai che abbiamo già a fare il nostro mestiere nella ristrettezza delle risorse. Faccio un esempio: quando tu provi a parlare di cosa c'è scritto per esempio nell'ultimo bellissimo libro della senatrice Renan Cattaneo, senatrice a vita ma soprattutto scienziata Renan Cattaneo, in cui racconta le contraddizioni del mondo pubblico su cose come vietare la ricerca, siamo uno dei pochissimi paesi del mondo che vieta la ricerca sugli OGM, quindi non si parla prima dell'esperimento in campo e prima di spiegare alla gente che ci nutriamo di cose OGM, no, qui vietiamo addirittura la ricerca. Ecco, quando uno parla di queste cose si viene travolti dall'opinione pubblica, che oramai ha l'opinione prevalente: ah, allora sei al servizio delle grandi multinazionali, ah, ti paga la Monsanto, allora se vuoi i vaccini, ah, ti paga Big Pharma. Ramuzzi, che si può immaginare di fare perché il mondo scientifico, dei medici eccetera, abbia a propria volta un po' più di fegato per impegnarsi nella comunicazione pubblica? Ma guardi, c'è un bellissimo articolo dell'Lancet di qualche anno fa, dove l'editor Richard Horton aveva fatto questo titolo che io trovo molto convincente: The Role of Doctors in Advocacy, sì. Il ruolo dei medici nel farsi avvocati dei loro pazienti. Noi dobbiamo cambiare completamente il modo con cui guardiamo, insegnare ai ragazzi dell'università, ai ragazzi giovani, a questi ragazzi che ormai sono meravigliosi, perché questo test di medicina che io ho tanto criticato, mi sbagliavo, in realtà abbiamo dei ragazzi bravissimi, insegnare a questi ragazzi che il nostro ruolo non è solo quello di guarire, è quello di prendere le difese dei nostri pazienti, di insegnare al pubblico le regole della scienza e di stare vicino a chi non riusciamo a guarire, che muore. Sono tutte cose che fanno parte, non si può sì. fare il medico in una parte sola, bisogna fare il medico in tutto quello che succede. Poi la storia delle multinazionali. Io lavoro al Mario Negri, non credo ci sia nessuno in Italia più del Mario Negri che ha preso le distanze dall'industria farmaceutica e da tutti i guai che sono legati all'industria farmaceutica, però tantissime cose che noi vediamo oggi, se una volta c'erano 2 milioni di ammalati di tumore che passavano i 5 anni e adesso ce n'è più di 3, questo è dovuto all'industria farmaceutica, i farmaci li ha sviluppati, i vaccini li ha sviluppati l'industria. Quindi il buono dell'industria va valorizzato, va detto a chiare lettere che oggi noi guariamo delle malattie, per esempio una malattia rara dei bambini, per cui i bambini morivano tutti, adesso non muore più nessuno. Qual è il guaio dell'industria? Il guaio è che questo farmaco qua costa 460.000 euro per un anno di trattamento, per sempre. Allora ci sono dei paesi dove uno dice alla mamma di un bambino: no, la cura c'è, però costa troppo, non la possiamo comprare, il servizio sanitario, no, questa è la follia dell'industria, però è l'industria che ha sviluppato quel farmaco lì, prima i bambini morivano, adesso non muoiono più. Allora, noi fermiamoci qui e la ringraziamo molto, professor Giuseppe Remuzzi, responsabile di ricerca Mario Negri di Bergamo, e dopo la pubblicità torneremo sul tema terremoto, che è un po' il nostro filo rosso conduttore di tutta la giornata, di tutta dove la anche programmazione qui di Radio 24. La logica per evitare gli errori compiuti da decenni, buttando soldi, falò come l'Irpinia, modelli diversi a danni fatti, dovrebbe indurci a un cambio di marcia, perché si spende meno prevenendo e soprattutto si evitano tantissimi morti e soprattutto poi costruendo e facendo le opere senza latrocini. Ci sono 2 lezioni da imparare e anche queste hanno a che vedere con il rigore del metodo scientifico, se Dio vuole. Tra poco, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Quando sono le 8 e 44 minuti, ricordiamo il numero. 44 minuti? Sì. Ci stiamo interrogando sulle topiche della stampa italiana in media, quelle internazionali, ecco. Perché breve flash, se andiamo al terremoto, però ricordatevi, vi hanno raccontato per 5 giorni che i pirati, sì, partito nuovo, antisistema in Islanda, avevano praticamente già vinto le elezioni, sì, sono arrivati terzi e hanno vinto i conservatori, decisivo anzi per formare il governo insieme ai conservatori che hanno preso più del doppio dei voti dei pirati, sarà un neonato partito liberale europeista, quindi insomma toppa italiana non a caso. Secondo, attenti, perché dopo che vi hanno raccontato che praticamente era inutile farla le presidenziali americane, tanto era in vantaggio Hillary, attenti che in alcuni stati decisivi come la Florida le cose stanno di nuovo cambiando a seguito della riapertura di questa indagine federale FBI su ipotesi di crimini molto pesanti di Hillary, scherzerei poco, ecco, cioè mi sembrano cattive elezioni, ma per entrambi i candidati, non solo per uno come la stampa italiana è sembrata a un certo punto raccontare per un mese intero, però questa è la mia opinione personale ovviamente, ecco. Allora, caro Oscar, qui dobbiamo parlare un po' di terremoto. Tu già avevi avuto ospite una dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Sì, questo nei giorni successivi al terremoto del 26, però 2 giorni prima di quello del 30, perché mi aveva molto colpito quello che aveva scritto proprio sulla faglia da cui poi si determina il terremoto di ieri mattina alle 7.41, dicendo quella faglia è silente, ma ci parla, caro Alessandro. E documentava come, cioè con le fotografie. Esatto, soprattutto soprattutto a Norcia, no? La dottoressa Quattrocchi che è con noi, buongiorno. Fedora Quattrocchi, buongiorno e benvenuta. Grazie. Buongiorno Oscar Giardini, buongiorno Salve. Ben ritrovata. Allora, quello che è successo a Norcia, ovviamente, ma non solo, è un qualcosa che, per carità, poi diciamolo, perché sennò poi ci accusano noi di antiscientificità, no, e no. Lei anche, mentre invece stiamo proprio parlando dell'importanza di avere un approccio scientifico su questo tema. Cosa si può dire di quello che è successo ieri, di quello che purtroppo potrebbe succedere anche nel prossimo futuro? Allora, intanto grazie al suo programma e all'articolo dell'Huffington Post ho ricevuto tantissime segnalazioni riguardo al terremoto, l'ultimo che c'è stato del 26. Che era una delle ragioni per cui ci siamo mossi, no? Consentirle, perché sì, lei l'articolo diceva, segnalateci le cose che vedete. Non essendoci ancora il questionario online, allora vado molto rapidamente. La cosa più interessante è stata la comparsa di uno spruzzo, sembra di acqua o gas, comunque è stato fotografato prima della scossa del 30, quello della mattina di ottobre. E questo sarà prontamente verificato a livello geochimico, perché dove? Una cosa a vedere lo spruzzo. Dove? Questo su Monte Vettore, da parte di un agricoltore. Ovviamente c'è la fotografia dello spruzzo, quindi si vede bene, però le indagini geochimiche eccetera sono in corso, quindi insomma. Un'altra cosa molto interessante è stata che la notte prima del terremoto forte, quello del 30, fino alle 2 di notte ho seguito una signora che mi faceva una serie di mail e di messaggi, perché il suo cane proprio non voleva stare in casa, e questo 5-6 ore prima della scossa delle 7:40, e la signora si trova sostanzialmente a una cinquantina di chilometri dalla scossa. Quindi quello che sto dicendo è, le segnalazioni che ho avuto sono abbastanza vaste nell'intorno della zona poi epicentrale. Una interessantissima cosa che mi era accaduta anche in Emilia, poche ore prima della scossa, tartaruga d'acqua, che sono molto sensibili, come sappiamo, le tartarughe, se lei considera che nell'oceano si orientano per trovare la loro direzione, quindi hanno dei sensori, per cui, parentesi, chiunque dica che gli animali hanno una sensoristica uguale a quella degli uomini è falso. Okay. Invito tutti a leggere la fisiologia degli animali per quanto riguarda la loro capacità sia nell'olfatto che nella percezione anche elettromagnetica, perché le tartarughe non hanno altro, sono segnali elettrici, elettromagnetici che orientano. Comunque, chiusa la parentesi, la tartaruga a Zagarolo, a casa di un signore che mi ha fatto una mail dicendo che per due o tre sere prima del forte terremoto di ieri questa tartaruga non ne voleva sentir parlare di rimanere in fondo al laghetto, dove normalmente sta in letargo in questo periodo. Ma queste sono tutte segnalazioni che le mandano di... Sì. Io poi ovviamente sto facendo un catalogo con tutte le prove, i filmati, perché è bene che si abbia. Io ho fatto gli NGV insieme, quando fu a Boschi, il catalogo dei fluidi di interesse sismotettonico e di queste anomalie presismiche, ed è collezionato agli NGV. Molto interessante anche questa cosa delle rosa colli. Allora, una signora ha allevato per anni questi piccoli uccelli, così dice, 30 minuti prima della scossa del 30 ottobre, magnitudo 6.5, ovviamente questi sono impazziti, e lei dice che questo avviene ogni volta prima che ci sono queste forti scosse, ma in particolare questa, e lei si trova ad Urbino. Allora, quello che voglio dire qui, ovviamente con beneficio della scienza empirica in questo caso, è che l'area di preparazione eventualmente di questo forte terremoto, solo considerando questi effetti, ripeto, sembrava piuttosto vasta nelle ore precedenti. Sì. Allora, ripeto, servirebbero delle reti multiparametriche che non ci sono, che costano, eccetera. Mancando quelle, noi poveri cittadini, insieme a noi poveri scienziati, vogliamo fare questo tipo di operazione, che è ricerca, ripeto, non è una operazione di previsione. Sì. Però, prima o poi, questo porterà a una previsione. Senta, io ma le posso dire anche nel 2100, nel 2100, no, però... ma prima di questo, scusi un secondo, perché una delle cose fondamentali che mi ha colpito e che pochi sanno è esattamente il fatto che lei dice: noi stavamo partendo anni fa, quando l'azione voluta dai vertici dell'epoca dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia Italiano negli anni 90 era quello di dotarci di una rete di rilevatori multiparametrici, multidisciplinari su tutto il territorio, e poi la cosa si è interrotta e siamo adesso a dei rilevatori monoparametrici. Allora, qual è l'ordine di grandezza delle risorse tagliate per cui dotarci invece di queste stazioni che sono up to date per la ricerca e per la comunità scientifica italiana? Guardi, le risorse per queste cose non ci sono più, perché sostanzialmente tutto sta andando alla sismologia probabilistica, cioè quella che ti dice entro X anni, non giorni, anni, la zona X sarà caratterizzata da una probabilità Y di avere una magnitudo Z. Questa è probabilistica. Dopodiché ci sono metodi sempre probabilistici relativi a quello che succede subito dopo una forte scossa, ci sono dei metodi, ma questo di cui parlo io sono dei metodi, diciamo, più deterministici, che comportano la presenza di reti. Certo. Di reti multiparametriche, perché non è che soltanto con la rete sismica, in cui sì, possiamo vedere diciamo degli sciami microsismici magari caratterizzati dalla presenza. Quindi è stato un cambio di dottrina, non solo un taglio di risorse finanziarie, quello che è avvenuto ai vertici dell'istituto negli anni. Esattamente. Ah, prima noi lavoravamo nello statuto, quando c'era Boschi, noi nello statuto c'è scritto studio dei precursori sismici, studio, non previsione, studio. Adesso non c'è più. Capito. Quindi è una questione proprio di cambiamento anche strategico. No, sì. A me però fa impressione, perché le fotografie che Fedora ha pubblicato di ciò che si rivelava sulle pendici o su alcuni versanti del Monte Vettore, uno adesso va a vedere, dopo il sisma di ieri c'è una spaccatura di chilometri e chilometri. Però la dottoressa Quattrocchi faceva vedere giorni prima: attenzione, perché qui avviene qualcosa. Adesso, ovviamente, tutto questo non ha niente a che vedere né con gli sciamani né col mesmerismo. La dottoressa Quattrocchi è una scienziata, quindi non è che stiamo parlando. Perché c'è molta ironia dicendo: ma come ha esaminato le tartarughe di Zagarolo o i comportamenti anche degli animali. Allora, noi intanto, nel ringraziarla, c'è Silvano da Vicenza con cui possiamo chiudere. Silvano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti. Io stavo a Tokyo, è venuta una forte scossa di terremoto. Ma quando? Però la cosa meravigliosa non era in quanto la scossa del terremoto, è che stavo davanti a un palazzo di 24 piani e sotto c'erano gli operai che cambiavano le colonne di acciaio, quelle di sostegno del palazzo. Ne mancavano tre colonne. A Tokyo questo? Ma quando è successo questo? 4 anni fa, in estate. Ah, ok. E quindi lei cosa vuole raccontare? Cioè che nonostante, durante la scossa di terremoto, la vita continuava... Vabbè, no, cioè c'erano dei paesi che costruiscono criteri antisismici, per cui solo quando si arriva oltre 7 oramai ci sono vittime, questo è il punto. Ma cioè, si è detto tante volte, qui però abbiamo... Anch'io l'ho detto, sono stato criticato. Ventenni per costruire la nuvola di Fuxas, buttando un mucchio di quattrini, e fischiamo quelli che se lo ricordano, che è veramente il colmo. Sì. Ma sì, io l'ho detto anche nel paragone di Tokyo, sai che molti mi hanno accusato, dice: ma noi abbiamo dei borghi medievali straordinari, come si fa a paragonare? Però nella diversità c'è qualcosa da imparare, e noi invece abbiamo tagliato le risorse addirittura. Va bene, Oscar, io domani sarei da solo qua, E io sono da solo, sì, però tenterò di non fare troppo. Io dormo. Figura. Va bene, dai, però oggi pomeriggio ci sei. Sì, come sempre. Ciao a tutti.